fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte, fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi, non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi mi sparo! Prima o poi mi sparo! E allora, una buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Come di consueto ormai, con questo super jingle. Sì, ecco. Come di consueto, con un super jingle e con Silicon Tofu degli Antimaniacs, comincia Radio Possum. Oggi parliamo di vivisezione, terza puntata, diciamo così, sulla vivisezione. Però prima diamo una notizia recentissima, non è una bella notizia, perché il capitano Paul Watson, che è il fondatore di Sea Shepherd Conservation Society, conoscete tutti Sea Shepherd, no? È la, chiamiamola, l'associazione che si batte in maniera molto forte contro l'uccisione delle balene e della pesca alle balene, in generale si batte a tutela della difesa dei mari e degli oceani. Il capitano Paul Watson è stato arrestato poche ore fa, verso le 9 di sera ore italiane, in Germania, a Francoforte, sulla base di un mandato di cattura internazionale spiccato dal Costa Rica, dal governo della magistratura del Costa Rica. L'episodio si riferisce al 2002, in particolar modo si parla di violazione del traffico navale. In sostanza, che cosa è successo? È successo che in acque del Guatemala Sea Shepherd ha individuato un'attività illegale di shark finning, ovvero sia di prelevamento di pinne di squalo, che è una pesca molto cruenta. Lo squalo viene preso a bordo, catturato, lì si tagliano le pinne e poi viene ributtato in mare ancora vivo e agonizzante, dove chiaramente poi muore. Messo in atto da un episodio di shark finning messo in atto da un'imbarcazione del Costa Rica chiamata Varadero. Su ordine delle autorità guatemalteche, Sea Shepherd ha intimato all'equipaggio della Varadero di cessare le proprie attività di shark finning e di tornare in porto. Mentre Sea Shepherd scortava la Varadero in porto, una nave armata del Guatemala è stata inviata a intercettare l'equipaggio di Sea Shepherd. Questo è un episodio del 2002. Adesso, 10 anni dopo, Paul Watson è stato arrestato, è stato fermato a Francoforte sulla base di questo mandato di cattura internazionale. Tra l'altro, noi sulla Sea Shepherd abbiamo imbarcato anche un nostro amico, no? Sì, speriamo che riusciremo a sentirlo, a intervistare. Va bene, questa è un po' la notizia in tempo reale. L'aggiornamento in tempo reale non è un bel aggiornamento. Tra l'altro, stasera parleremo anche un po' alla fine di prigionieri, animalisti, ecologisti. Se ne è aggiunto un'altra, appunto, che è Paul Watson, a cui va la nostra piena solidarietà e complicità. Sì. E dopo questa, appunto, triste notizia, incominciamo con il tema della puntata di oggi, che è sempre, appunto, abbiamo detto, della sperimentazione animale o vivisezione, che abbiamo affrontato da un punto di vista scientifico la scorsa puntata, ma che può essere affrontato da altri punti di vista. Infatti la sperimentazione animale comunque include una considerazione della scienza medica in generale e comunque dei suoi legami anche con il sistema sociale, e politico ed economico. E la sperimentazione animale, che nella scorsa puntata abbiamo identificato come un metodo inesatto, quindi un errore metodologico, e inoltre perpetua una visione di tipo meccanicista e riduzionista della natura e della vita, in quanto l'animale è studiato al di fuori del suo contesto naturale e analizzato nelle minime parti e reazioni, ma non riesce a rappresentare un modello valido neanche per la specie a cui fa riferimento. A maggior ragione i risultati che si estrapolano dall'animale sono non solo riportabili all'uomo, se non come mere previsioni che poi si dimostrano fortuitamente a volte esatte a posteriori. In questo tipo di visione riduzionista, quindi, si dimentica l'interazione dell'uomo, dell'animale con l'ambiente, e poi si tendono a trascurare, è una strategia per trascurare quali sono, appunto, le cause reali della malattia, che attengono un po' un equilibrio psicofisico. e quindi la malattia diciamo è affrontata come un problema tecnico dell'uomo macchina, come l'animale viene considerato un animale macchina. E un piano riduzionista che comunque si è imposto nel corso dei secoli e che è supportato da una determinata impostazione economica e politica che appunto ha interesse a mantenere questo tipo di approccio riduzionista. Se vogliamo considerare appunto quello che viene dichiarato a livello ufficiale, i progressi della scienza vengono legati alla sperimentazione animale, ai progressi della scienza medica. E a tal proposito l'enciclopedia britannica afferma sotto la voce Animal Experimentation che non esiste una sola importante conoscenza moderna di medicina che non deve qualcosa alla sperimentazione animale, ignorando tutto il resto della storia della medicina. Sappiamo che non è così. E sappiamo che molti farmaci con un reale valore terapeutico sono stati scoperti fortuitamente e se fossero stati testati sull'animale non avrebbero forse raggiunto l'uomo, come abbiamo ricordato anche la scorsa volta la penicillina. Ma per fare un po' una storia della medicina, in Occidente l'uso della vivisezione si impone nel secondo secolo d.C. con Galeno, a cui poi sono dovuti anche diversi errori che si sono perpetuati nel corso del Medioevo. E la sperimentazione si sistematizza nel XIX secolo in seguito all'opera disastrosa di Claude Bernard. Ma se vogliamo considerare soltanto il mondo occidentale, c'erano stati altri tipi di approcci che basavano l'arte medica sulla clinica, quali per esempio la visione ippocratica. Ippocrate visse tra il V e il IV secolo avanti Cristo e sosteneva il potere guaritore della natura. Come trattamento privilegiato indicava quello dietetico e affermava inoltre come principio imprescindibile il non nuocere. Egli aveva introdotto una regola molto importante, la regola igienica, che in realtà fu oscurata dallo stesso Galeno che impose la sperimentazione animale e che considerava appunto la regola igienica come un'antica superstizione e fu reintrodotta la regola igienica soltanto in età moderna, dopo che comunque aveva portato a una serie di epidemie durante tutto il Medioevo. E l'opera di Galeno, che appunto era basata sulla sperimentazione animale e che fu assunta come dogma per molti secoli, perché appunto la sperimentazione animale può essere considerata un dogma anche attualmente, gli errori del galenismo furono confutati soltanto in tempi recenti, grazie allo studio diretto dell'anatomia umana. Ma diciamo dopo l'opera nefasta di Galeno fu ripresa nel XIX secolo grazie, anche se in senso ironico, grazie all'opera di Claude Bernard e alla sua introduzione allo studio della medicina sperimentale, opera che faceva della vivisezione l'unica ricerca medica valida. Claude Bernard, che eseguì esperimenti disastrosi su molteplici animali, soprattutto cani, tanto che arrivò a sperimentare sul suo stesso cane di famiglia e la moglie e la figlia di Bernard fondarono la prima associazione di protezione animale distaccandosi dal marito, dal padre. E Claude Bernard studiò in particolare cani per trovare una soluzione al problema del diabete. Oggi sappiamo, proprio per il diabete, come già sapeva Ippocrate, che il diabete può essere affrontato soltanto attraverso la prevenzione dietetica. E attraverso appunto queste disposizioni dietetiche si può evitare la malattia, quindi tutti gli studi diciamo nefasti di Bernard in realtà non diettero dei risultati che furono poi utilizzabili per l'uomo. Quindi questo dogma della sperimentazione animale che si impone nel corso del tempo e del tempo, che diventa un po' una strategia anche legata ad altre impostazioni di dominio politico-economico, fecero trascurare appunto l'interesse della prevenzione o l'interesse appunto di scrutare quali sono le cause reali della malattia. Questa affermazione ideologica della sperimentazione animale, oltre appunto all'opera di questi scienziati tra virgolette che abbiamo citato, fu supportata dall'impostazione razionalistica e positivista che cercò un po' di in qualche modo demonizzare la vita, riducendola nello studio di alcune porzioni, in uno studio atomizzato della stessa, come se appunto la vita fosse un antico peccato in qualche senso, in un certo senso. E allegato a questa impostazione si crea un'ideologia politica, lo scientismo, che afferma la possibilità dell'uomo di dominare completamente la realtà, quindi attraverso una pratica riduzionista si crea un'ideologia di dominio. Allora, prima di continuare appunto questo excursus un po' politico-economico, abbiamo pensato di citare anche alcuni esperimenti condotti all'interno dei laboratori, alcuni esperimenti appunto nascosti, tra cui quelli di Claude Bernard o dei suoi seguaci. Claude Bernard, il grande sacerdote della vivisezione moderna, si fece costruire un forno speciale dal quale rimaneva fuori soltanto la testa dell'animale mentre il corpo si disfaceva, e che lo mise in grado di pubblicare una delle sue tante opere pseudoscientifiche. Così il grande precursore degli odierni ricercatori pretendeva di scoprire il segreto della febbre, come se il calore corporeo procurato da un forno equivalesse all'aumento di temperatura causato da una malattia. Egli stesso descrisse minutamente la morte lenta di vari cani e conigli arrostiti vivi e fece la gran scoperta che un cane può sopravvivere alla cottura fino all'indomani, quando la testa rimane fuori dal forno. Guardateci tutti, siamo qui e stiamo ballando attorno al fuoco e stiamo ridendo. bene, quindi diciamo la base del nostro ragionamento è la necessità di un vero e proprio antivivisezionismo politico che si lega a un discorso più ampio che è quello dell'antispecismo e quindi della liberazione umana e al tempo stesso della liberazione animale, che sono due passaggi correlati e uno dipendente in qualche modo dall'altro. L'idea di fondo, insomma, dell'antivisezionismo politico, come dicevamo prima, era quella che la sperimentazione animale è in piccolo una forma di dominio che però esce dalle stanze, dalle gabbie dei laboratori e riproduce logiche anche nei rapporti umani. Ancora una volta un'analisi dell'evoluzione storica della vivisezione, della sperimentazione animale è estremamente indicativa in questo senso. C'è un articolo su liberazioni.org, che è un sito che abbiamo già citato in altre puntate, un articolo di uno studioso, Massimo Filippi, in cui sostanzialmente si fa notare come questo Claude Bernard, che tra l'altro venne abbandonato dalla moglie, dalle figlie e anche dai suoi assistenti, che a un certo punto ovviamente colsero la follia di quest'uomo. Claude Bernard era un personaggio dell'Ottocento ed era un personaggio pienamente iscritto nella filosofia, sotto certi aspetti nefasta, dell'Ottocento. All'interno di questa filosofia, di questo modo di concepire la vita in termini estremamente tecnici, materialistici, riduzionistici, Bernard pratica la sperimentazione animale in un mondo che si sta incamminando, o in parte si è già incamminato, lungo le strade della rivoluzione industriale. Allora è facile osservare come, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico, accanto alla vivisezione, accanto alla sperimentazione animale, nascano altre forme di sfruttamento animale, per esempio i grandi mattatoi industriali, no? Prima negli Stati Uniti e poi piano piano anche in Europa, e soprattutto spostandoci da un livello animale, diciamo così, a un livello umano, comincino a nascere per esempio le catene di montaggio, la figura della catena di montaggio, quindi la perfetta alienazione dell'uomo, l'uomo che non ha più identità, ma è semplicemente un pezzo di carne chiamato a svolgere un ruolo delimitato e totalmente estraneato dal contesto sociale in cui esso si svolge. Un filone che, se vogliamo, si muove, e per alcuni forse può sembrare un'eresia, ma in realtà non lo è se ci si pensa bene, approda fino e sfocia fino al secolo appena trascorso, fino al Novecento, e culmina nell'Olocausto. Il parallelo tra Olocausto e sfruttamento animale è un parallelo portato avanti da molti filosofi, da altri contestato, considerato quasi, come dire, eretico. Vorremmo citare il caso soltanto di una persona, Mark Berkowitz. Mark Berkowitz era un ebreo cecoslovacco che venne deportato ad Auschwitz con la famiglia. Lui aveva una gemella, una sorella gemella, e quindi, come purtroppo capitava ad Auschwitz, i gemelli venivano immediatamente isolati e finivano nelle mani del più grande vivisettore della storia, cioè il dottor Joseph Mengele. Lui riuscì a sopravvivere ad Auschwitz e divenne poi attivista per la liberazione animale, e in particolare dedicò la sua attività soprattutto al contrasto e alla lotta della vivisezione, della sperimentazione che lui aveva subito sulla sua pelle. Ancora una volta, esattamente al pari di molti altri prigionieri superstiti dei campi di sterminio che divennero vegetariani o vegan, lo stesso Berkowitz, uscito da Auschwitz, citò e più volte, come dire, portò avanti e cercò di far comprendere la tesi di come quello che succedeva oggi all'interno della quotidianità dei laboratori di vivisezione era stato portato fuori dai laboratori di vivisezione e di sperimentazione animale, ed era diventata in un certo qual modo una prassi comune della vita umana e delle relazioni tra individui. All'interno della società moderna, cioè, si possono intuire, si possono tracciare due linee parallele di sfruttamento animale da una parte e di sfruttamento umano dall'altro. In entrambi i casi non vi è praticamente nessuna attenzione alla dimensione psicologica della vita, alla dimensione olistica, se vogliamo, no? Tutto è ridotto a materia misurabile e soprattutto replicabile. L'importante è comprendere come questa visione esca dai laboratori e in qualche modo permei, in qualche modo caratterizzi la nostra società e la nostra cultura, basata sulla produzione, basata sulla riproduzione. C'è il caso per esempio di un filosofo come Walter Benjamin, che ha dedicato la sua vita allo studio della riproducibilità, no? dell'opera d'arte. E una realtà basata anche sulla standardizzazione dei consumi, sulla standardizzazione della stessa vita, della fruizione del tempo libero, delle pratiche produttive e via dicendo. Questo è un po' il carattere distintivo della nostra società, e questi stessi aspetti della nostra società trovano nei laboratori di vivisezione una, non l'unica chiaramente, ma una delle tante palestre in cui questo dominio viene esercitato. È importante sottolineare che questo dominio non è soltanto una questione teorica, può sembrare un dibattito teorico, come poi vedremo i misfatti delle grandi industrie, delle grandi corporation industriali, farmaceutiche e via dicendo, sfruttano gli animali nei laboratori di vivisezione, ma poi sfruttano le persone, individui considerati soltanto come consumatori o peggio ancora individui considerati come cavie. A volte, non sempre, ma molto spesso queste due figure sono ovviamente sovrapponibili. Con questo ci teniamo anche a far cadere un po' quell'eterna quella domanda che in realtà è un inganno, è una mistificazione dei sostenitori della vivisezione, no? E cioè quel falso dualismo che viene in qualche modo espresso quando si domanda: ma vale di più la vita di un topo o di un bambino? Ma tu preferiresti far morire tuo figlio invece di far morire un cane o un gatto o un criceto o un coniglio e via dicendo. Quello che noi sosteniamo è che lo sfruttamento oggi del coniglio o del topo all'interno di un laboratorio di vivisezione esce dal laboratorio di vivisezione e poi nella realtà quotidiana riproduce forme di dominio e forme di sfruttamento che condizionano anche la nostra vita. Per questo la vivisezione e più in generale lo sfruttamento animale non è soltanto un problema animale, ma è un problema umano da un certo punto di vista, e non soltanto in termini di responsabilità o di etica, ma è un problema veramente politico. Sì, infatti parliamo appunto, abbiamo voluto così identificare un po' questa assunzione del riduzionismo, del meccanicismo, come questa assunzione della sperimentazione animale, come l'assunzione di un dogma, di un paradigma dominante, che poi è uno strumento appunto che è legato a una determinata impostazione sociale e politica. Infatti questo riduzionismo porta anche a determinate conseguenze di tipo sociali, determinate conseguenze nella definizione della malattia. La malattia è infatti tradotta in una serie di disturbi che vengono raccolti in un dossier, e la cura di questa malattia viene individuata nell'ingestione di un sempre maggior numero di farmaci che tendono a curare il sintomo. Ma appunto l'uomo che viene indotto a consumare un numero sempre più spropositato di farmaci e ad assumere un po' la pillola come panacea di ogni male, diventa anche bisognoso di un determinato sistema medico che in realtà lo ammala, perché lo induce ad assumere sempre più farmaci. Ricordiamo a questo punto che le malattie iatrogene, che sono appunto le malattie che derivano dalle cure che si subiscono, sono la quarta causa di morte attualmente nei paesi occidentali. Ma che cos'è invece la salute? La salute è un adeguamento ottimale alle condizioni esterne e quindi un'analisi delle proprie proprio benessere psicofisico, anche appunto di una propria anche la ripresa di un'autocoscienza, una riapprovazione di se stessi e della propria cura in qualche modo. Un approccio che già appunto era stato compiuto in Occidente, cioè era stato già portato avanti in Occidente da diversi medici, ma era stato portato avanti in Oriente e che veniva portato avanti anche delle cosiddette etnomedicine. A questo punto si può fare un esempio. Infatti quando ci fu appunto l'imposizione del coloniale degli occidentali nelle Americhe piuttosto che in Africa, la medicina occidentale ebbe sopravvento, perché demonizzò un po' le etnomedicine considerandole una sorta di stregonerie. E questo è un po' l'approccio che si è sempre voluto portare avanti, ciò che appunto non può essere utilizzato ai fini economici o politici viene considerato come qualcosa di irrazionale, qualcosa legato appunto a pratiche che è legato alle pratiche magiche e viene allontanato. L'approccio delle etnomedicine era un approccio invece essenzialmente culturale, che era lontano dal riduzionismo e dal tecnicismo della medicina occidentale. Un'altra differenza è appunto nell'assunzione di una determinata scienza medica che tende a ridurre tutto a sintomi e quindi assoggetta il paziente a una persona appunto bisognosa di cure, perché non può penetrare la propria malattia se non appunto curare i propri sintomi con delle medicine, è anche ciò che appunto si produce è la perdita della capacità sociale di identificare e ad affrontare la sofferenza e la morte come sfida che era sempre stata appunto affrontata in maniera culturale. E quindi il significato un po' personale della malattia, della morte, viene a mancare. A questo punto posso vorrei citare anche una frase di Ivan Illich che nel suo Nemesi Medica fa appunto una critica della medicalizzazione della società proprio affrontandola dal punto di vista della perdita dell'individuo di questa capacità di autoguarigione. Ivan Illich dice: l'individuo diventa incapace di accettare la sofferenza come una componente inevitabile del suo consapevole confronto con la realtà e impara a vedere in ogni suo malessere il segno di un proprio bisogno di protezione al riguardo, e quindi identifica appunto il fine di questo tipo di impostazione del rendere l'individuo bisognoso di un determinato sistema che appunto è un sistema di dominio. Non è così, perché cioè l'uomo, la sensazione per esempio del dolore può essere rielaborata, ma si rielabora soprattutto attraverso la cultura, questo lo sappiamo grazie a alcuni studi tipo psicologico, sociologico e quant'altro. Ciò che fa la professione medica è inoltre decidere quali dolori, proprio parlando di dolori, sono autentici, quali psicosomatici, quali immaginari, in quanto la professione medica, il medico può categorizzare la società e individuare il malato, il pazzo, il sano, questo sempre lo dice Ivan Illich in questo Nemesi Medica, definisce l'individuo come adatto o inadatto a svolgere particolari menzioni. Ciò che l'uomo moderno appunto viene portato ad ambire è quello prolungare ad infinito la propria vita, anche se questa vita poi può essere medicalizzata e può essere soltanto ridotta ad una sopravvivenza senza anche una coscienza di questa sopravvivenza in clinica, e quindi l'ambizione diventa quella di una morte desiderabile, perpetuata anche da una medicalizzazione massiccia della vecchiaia. Il vissuto sociale, la vecchiaia, viene staccato, non è più un evento naturale, ma viene tramutato da una determinata industria ospedaliera come un evento tecnico, meccanico da tenere sotto controllo. Si crocifigge un cane per studiare la durata dell'agonia di Cristo. Si squarta una cagna gravida per osservare l'istinto materno sotto il dolore intenso. Un'equipe di cosiddetti scienziati paralizza un branco di gatti. Sega via la volta crani che stuzzica il cervello, mentre le bestiole non anestetizzate sono costrette a inalare varie concentrazioni di anidride carbonica. E alla fine si ha la riprova di quanto già si sapeva da anni, che esiste una correlazione tra la concentrazione dell'anidride carbonica nel sangue e gli squilibri nervosi. Altri ricercatori immergono in acqua bollente 15.000 animali diversi, poi somministrano a metà di essi un estratto epatico di cui sono note da tempo le proprietà terapeutiche in caso di shock. Come era da aspettarsi, gli animali trattati dal farmaco agonizzano più a lungo degli altri. Si costringono dei cani a bere soltanto alcol puro per oltre un anno, per ottenere la prova scientifica che l'abuso di alcol è nocivo. Migliaia di topi, conigli e cani, per lo più tracheotomizzati, vengono costretti a fumare sigarette per mesi e anni e naturalmente molti muoiono, ma gli sperimentatori subito avvertono che non è possibile alcuna trasmissione di dati validi all'uomo. Due medici universitari somministrano a 12 gatti, ognuno rinchiuso in una scatola, scosse elettriche convulsanti, distanziati in modo da permettergli di riprendersi dalla convulsione precedente. I 7 gatti che sopravvivono hanno dovuto sopportare 95 di tali scosse. Gli altri 5 muoiono prima della fine dell'esperimento. Lo scopo? I medici dichiarano che fino allora non esistevano registrazioni precise delle onde cerebrali di un gatto in preda a convulsioni. Ecco, questi sono esperimenti fatti da tutti scienziati diversi negli anni passati. Insomma, parliamo degli ultimi anni, non stiamo parlando dell'anteguerra. Vedete la mentalità, la vivisezione, la sperimentazione animale non è soltanto violenza sugli animali o falsa scienza, è un fenomeno che produce effetti sociali, politici, culturali, economici anche sulle persone, sulla società moderna. Ne possiamo citare molti altri di effetti, un effetto di questo sicuramente è la distorsione che in fondo poi più che un effetto forse è la causa stessa della vivisezione, la distorsione della visione della scienza, che arriva a essere una forma, se vogliamo, dogmatica, una nuova forma di quasi oscurantismo, no? Nel senso che la scienza perde il suo perdendo qualsiasi confine politico ed etico, la falsa scienza che è dietro la vivisezione perde la sua natura strumentale, perde il fatto di essere non uno strumento per, chiamiamolo in termini forse non tutti esatti, però per essere sintetici, uno strumento per il benessere, ma diventa un fine valido a se stesso. Il progresso non è più un bene strumentale, ma un valore sciolto da qualsiasi considerazione politica, non è permesso dubitarne, non è permesso soprattutto affrontarlo in maniera critica, appena l'accusa di oscurantismo. Ora, pensate un attimo, questa non è una questione soltanto alla visezione, pensate agli OGM. dietro i quali tra l'altro c'è anche molta sperimentazione animale. Pensate alla TAV, pensate alle nuove tecnologie, pensate alle bio e nanotecnologie, pensate a tutte le nocività, pensate agli inceneritori e via dicendo, no? Pensate a chiunque si oppone a queste realtà, che cosa vi sentite dire? Vi sentite dire che voi siete contro il progresso, come se il progresso fosse un valore in se stesso che può calpestare tutto e può passare sopra tutto. Un altro aspetto che ci fa capire come le ricadute di questa mentalità sulla vita umana che prima la compagna ha accennato è la questione della medicalizzazione della società. Ora, la medicalizzazione della società ha due effetti molto gravi. Il primo effetto è quello di produrre fondamentalmente una società di netti, una società di persone che sono perennemente dipendenti dallo Stato, dai servizi pubblici, una società di persone che sono perennemente spaventate, impaurite, ossessionate dalla medicina, dalle pseudo nuove epidemie, ossessionate dall'igiene in maniera chiaramente malposta, cioè produce una serie di soggetti deboli che sono dipendenti e che sono anche facilmente manipolabili. Questa società di inetti, in un certo senso, la stessa società che si fa abbindolare dall'emergenza del terrorismo, che si fa abbindolare dalle leggi speciali, che si fa abbindolare da tutta una serie di nocività politiche, non parliamo più soltanto di animali, no, da tutta una serie di fattori di manipolazione dai mass media, dai consumi di massa che permeano la nostra vita. L'altro aspetto importante, l'altra conseguenza grave della medicalizzazione della società è la creazione di continue nuove dipendenze, che sono sia fisiche che mentali. Noi dipendiamo continuamente da farmaci e da sostanze chimiche, e a loro volta questi farmaci e queste sostanze chimiche creano assuefazioni e resistenze. Voi pensate agli antibiotici e pesticidi, molte volte, molto spesso c'è un continuo ricambio di antibiotici e pesticidi perché queste sostanze sviluppano resistenze e quindi si necessita di nuove sostanze, di nuove ricerche, di nuovi massacri di animali nei laboratori e di nuovo business e di nuovi soldi per le grandi case industriali, farmaceutiche, per i colossi dell'agroalimentare e via dicendo. Questa è una corsa in qualche modo potenzialmente eterna, cioè non ha fine, ma la cosa su cui vale la pena prestare attenzione è che questa corsa è sempre e comunque eterodiretta, cioè l'uomo, l'individuo contestualizzato all'interno della società non ha il controllo di questa corsa, perché questa corsa gli viene in qualche modo una cosa che avviene sopra di lui, non è il soggetto beneficiario, casomai è il soggetto sfruttato. È uno sfruttamento diverso da quello che patisce l'animale in laboratorio, è molto più indiretto, è molto più sottile, però paradossalmente è anche uno sfruttamento ancora più grave da un certo punto di vista, perché l'individuo molte volte neanche se ne accorge. Un altro aspetto si potrebbe per esempio citare, una conseguenza è la creazione della casta dei medici e di tutta quella burocrazia della salute, dirigenti, informatori farmaceutici e via dicendo. Se ci pensate, la riproposizione moderna dell'antica figura dello stregone, no? Assolutamente una casta assolutamente fuori controllo e con la quale non è quasi permessa nessuna interazione critica, anche perché che cosa succede? Succede che all'interno di tutto questo si sviluppa un linguaggio specifico, e Max Weber per esempio ci insegnava che il linguaggio è uno strumento del potere. Chi conosce un linguaggio, chi conosce formule linguistiche, linguaggio non è soltanto espressione del potere, ma è la conoscenza del linguaggio che ti dà potere. Essendo esclusi dal linguaggio specialistico, la maggior parte degli individui sono in qualche modo sottoposti a livello sia fisico che psicologico dalla casta, diciamo così, dei professionisti della salute e dei businessmen della salute. L'ultimo aspetto, che forse è uno dei tanti, insomma, ma che vale la pena sottolineare visto il tempo in qualche modo contingentato, è l'enorme potere, e forse anche quello un po' più scontato, diciamo così, è l'enorme potere delle multinazionali del farmaco. E quello che poi adesso approfondiamo, io adesso lo accenno, ha dato vita al cosiddetto business della paura. Anche qui è come un cane che si morde la coda. Noi gatti non si mordono la coda, un cane che si morde la coda. E sì. Pensateci. Non si eliminano le cause delle malattie, come dicevamo prima, no, c'è la visione di curare il sintomo, curare l'effetto e non di prevenirlo. Quali sono le cause delle malattie? Il cosiddetto stress, che è una formula che vuole dire tutto e niente, l'inquinamento, le nocività varie, l'alimentazione, lo stile di vita e via dicendo. Ma si proliferano le cure, che sono spesso inutili o che spesso fanno sorgere altri problemi, la questione delle malattie iatrogene, no? E dunque danno il là ad altre cure. È un circolo vizioso dello sfruttamento umano, ma soprattutto anche dello sfruttamento animale. Molte attività che causano dolore, problemi, sofferenze alle persone, per esempio pensate all'allevamento intensivo, alla carne, all'inquinamento, alla pratica della deforestazione e via dicendo, sono attività che hanno come prime vittime gli animali. L'uomo, anziché cercare di eliminare queste cause, quindi di prevenire e quindi anche di eliminare le sofferenze degli animali, a loro volta non previene, ma si preoccupa soltanto, non elimina quindi le cause, ma si preoccupa soltanto di curare le conseguenze. E come le cura? Ricorrendo massicciamente all'industria farmacologica, alla dipendenza dai medicinali e quindi incentivando anche la vivisezione. In sintesi, l'animale ne esce perdente perché è la vittima così più immediata, l'uomo entra in un gorgo di sfruttamento lui stesso, che è un po' più sottile, che speriamo di riuscire a esprimere pienamente, però non è meno reale. Sì, infatti questo il legame tra appunto questo tipo di visione e l'economia è evidente, tanto che dalle parole di Pietro Croce, che abbiamo l'anatomopatologo, abbiamo già citato la scorsa volta, definisce appunto la medicina una industria interessata a promuovere se stessa, secondo la logica consumistica, creare malattie per poterle curare e poi curare le malattie provocate dalla cura usata per curare le malattie. E un elemento importante appunto per questo legame tra scienza medica e economia è appunto il cosiddetto business della paura, che riguarda soprattutto la ricerca sul cancro, perché appunto il cancro è la malattia del secolo, ma che riguarda anche la ricerca per i vaccini, per le malattie cardiovascolari e quant'altro. Tutte ricerche che vengono appunto sovvenzionate anche con i fondi di noi cittadini, che comunque ci rivolgiamo alle associazioni che fanno ricerca per quello o per quell'altra malattia, non sapendo che la maggior parte delle volte questa ricerca è indirizzata a sovvenzionare la sperimentazione animale, e quindi è indirizzata in questo tipo di impostazione medica riduzionista, ma tende a trascurare appunto l'elemento della prevenzione. Altro elemento: si continuano a immettere sostanze chimiche all'ambiente, non si pensa a una riduzione di queste sostanze chimiche, anzi le stesse sostanze chimiche emesse nell'ambiente vengono testate attraverso la sperimentazione animale, e quindi la sperimentazione animale viene utilizzata per immettere qualsiasi cosa, perché appunto basta scegliere la specie animale adatta, anche perché per quanto riguarda le sostanze sostanze chimiche a differenza dei farmaci non si fanno test clinici sull'uomo, quindi esclusivamente sull'animale appunto che si desidera utilizzare per avere un determinato risultato. Appunto questo business della paura viene incentivato da una determinata comunicazione che è appunto orientata a una sempre massiccia raccolta fondi, ma ci sono delle voci contrarie verso questa attivazione, questo business che comunque è nocivo sia per l'uomo che soprattutto poi per gli animali. Recentemente infatti in Inghilterra è partita una campagna promossa da Animal Aid chiamata Victim of Charity, in cui si denuncia come le maggiori enti di ricerca si sovvenzionano con appunto i fondi dei cittadini, ma sono orientati alla sperimentazione animale e poche volte appunto in questi tipi di ricerca si trovano dei risultati, e appunto i risultati che si trovano poi non sono necessariamente correlati alla sperimentazione animale, anzi ci sono dei casi in cui la sperimentazione animale ha rallentato le ricerche soprattutto per il cancro. Possiamo ricordare per esempio la correlazione tra fumo e cancro ai polmoni, che venne smentita per anni e che era stata già individuata a livello epidemiologico, cioè a livello appunto di studio clinico ed epidemiologico, ma che non aveva avuto la prova dei test animali, perché gli animali utilizzati non sviluppavano il cancro, e quindi le persone continuarono appunto a fumare ignare di questa correlazione, le ricerche furono rallentate di 20 anni, così come in tanti altri campi. Mettiamo un po' di musica. Sì, vogliamo leggere? Okay. Leggiamo un altro esperimento. Si prendono le scimmie traumatizzate dalle violenze che hanno dovuto subire durante la cattura e i trasporti, dalle scene allucinanti a cui devono assistere nei laboratori, dalle nuove violenze quando vengono imprigionate nelle sedi di contenzione, dalla foratura del cranio per gli inserimenti di elettrodi e mediante prolungate torture, di solito a base di scosse elettriche, le si fanno impazzire, finché esse manifestano certi sintomi che esteriormente somigliano a volte a quelli dell'epilessia umana, schiuma alla bocca, convulsioni, eccetera, ma che ovviamente con quest'ultima non hanno nulla a che fare, perché provengono da una condizione del tutto diversa, indotta artificialmente, laddove l'epilessia umana insorge dall'interno, spontaneamente. E provando su queste scimmie impazzite una varietà di droghe, intese ad assicurare le ditte farmaceutiche lauti profitti, si pretende di trovare una certa cura all'epilessia. Un po' questo legame tra sperimentazione animale e appunto interessi economici, possiamo ricordare che attualmente appunto le medicine di nuova formulazione sono poche, si mettono sul mercato la maggior parte sono farmacicope, mixed drugs, e se ne mettono in continuazione, e in realtà anche la valutazione degli effetti di questi farmaci sull'uomo non è valutabile, perché appunto i farmaci assunti quotidianamente sono in numero esagerato, quindi non si può valutare neanche i reali effetti sull'uomo. Possiamo adesso citare anche dei fatti attuali anche che evidenziano come chi si è voluto distaccare da una determinata medicalizzazione massiccia sia stato contrastato politicamente, perché andava appunto a cozzare con determinati interessi economici, tanto che come possiamo vedere anche attualmente chi appunto manifesta contro la sperimentazione animale viene contrastato da una massiccia campagna pubblicitaria delle industrie appunto farmaceutiche, che adesso dovrebbe imperversare in Italia e che è partita dall'America con la famosa campagna preferisce salvare la bambina o l'uomo. Per ritornare comunque a un fatto storico, nel 1978 lo Sri Lanka decise di ridurre l'importazione di farmaci dagli Stati Uniti, in quanto avevano capito che ben pochi avevano un reale valore terapeutico. Il governo srilanchese però venne intimato di sospendere questa decisione se voleva continuare a beneficiare degli aiuti appunto economici statunitensi. Ma come questi ci sono tanti altri casi, come l'elenco del, come dire, della vivisezione non sugli animali ma sugli umani è sconfinato. Basta una rapida ricerca su Google, soprattutto a partire dagli anni 90 si è cominciato a parlare di quello che facevano le multinazionali del farmaco nel cosiddetto terzo mondo, in modo particolare in Africa. A conferma ancora una volta di come la domanda preferisci il topo o il bambino sia semplicemente una enorme menzogna, un colossale inganno. Un caso soltanto, il più recente. Sì, per aggiungere una cosa, innanzitutto bisogna dire che la sperimentazione animale è soltanto un primo step, perché poi c'è la sperimentazione sull'uomo. La sperimentazione è su volontari, sia sani che malati. Volontari, anche questo è abbastanza opinabile, perché appunto vengono resi volontari a volte appunto prigionieri o comunque persone che si trovano in situazioni economiche disastrate, o comunque ci sono dei casi storici di sperimentazione anche ingannevole su popolazioni marginate, quali per esempio in America sui neri veniva studiata la sifilide, per esempio, oppure venivano sperimentazioni su feti umani che venivano appunto tolti a donne che si trovavano in situazioni di marginalità sociale. I casi sono moltissimi, e comunque la sperimentazione clinica sull'uomo è uno step imprescindibile della commercializzazione dei farmaci, anche se il reale effetto sull'uomo del farmaco sia dopo la farmacovigilanza, dopo 20 anni che il farmaco è in commercio, e comunque i profitti sono già stati sono larghi, e quindi anche se il farmaco verrà ritirato i profitti sono stati fatti. Una storia al volo di ordinario sfruttamento molto recente. E, nel gennaio del 2012 un tribunale in Argentina ha condannato la Glaxo, che è una notissima multinazionale farmaceutica, a una pena economica irrisoria. Si parla di qualche migliaio di dollari, non ricordiamo esattamente la cifra, ma nulla di particolarmente eclatante per un colosso della farmaceutica, perché è stato accertato che la Glaxo negli anni ha sperimentato medicinali e farmaci in via di appunto sperimentazioni su dei neonati. Neonati che erano di solito figli di persone povere e soprattutto analfabete. E sostanzialmente cosa faceva la Glaxo? La Glaxo pagava dei medici argentini, questi medici argentini facevano pressione dall'alto della loro appunto autorevolezza, che gli viene riconosciuta. Ricordate quando parlavamo appunto della casta dei medici, della burocrazia dei medici, no? Su queste persone povere e per lo più ignoranti, appunto analfabeti, li facevano leggere tra virgolette dei moduli e gli estorcevano la firma. Questi neonati venivano trasferiti in cliniche private e si sperimentava su questi neonati, ripeto, su dei neonati, dei farmaci. Si parla di un qualcosa come 15.000 bambini che sono stati trattati come cavie da parte di questi medici pagati dalla Glaxo. Si sa che almeno una quindicina di loro sono sicuramente morti in seguito a questo trattamento. Non si ha chiaramente la cifra completa, non si sa neanche le conseguenze fisiche che questi bambini sopravvissuti, diciamo, hanno patito poi crescendo. Va bene, mettiamo una canzone e poi concludiamo con le azioni, e abbiamo anche un comunicato di una prigioniera dell'Elf. Mariposa che vuela junto a mí, trae colores y un secreto, algo que me hace sonreír y mirarte cerca. No momento, quiero tenerte a mi lado, en tus alas y ser feliz. Puede ser que sea tan así como la gota que cae a veces y se disuelve al rozar. Gracias. Bene, parte finale di trasmissione, speriamo che vi sia piaciuta e vi abbia interessato. Come al solito diamo notizie, appuntamenti e, come dire, consigli per la lettura. Oggi abbiamo cominciato citando un fatto di cronaca, cioè l'arresto di Paul Watson di Sea Shepherd, e finiamo sempre con notizie che riguardano i prigionieri animalisti ed ecologisti radicali. Una notizia buona e una notizia, in realtà la seconda cosa non è una notizia, è un comunicato che vogliamo leggere perché è davvero molto bello e interessante. Per quanto riguarda la notizia buona, è stato il rilascio di Victor Van Orden, un prigioniero americano animalista. Victor Van Orden, dopo aver scontato, leggiamo da informazione-azione.info, Victor Van Orden, dopo aver scontato soli 3 mesi della sua condanna a 5 anni, in febbraio Victor era stato condannato all'esorbitante pena di 5 anni di carcere per aver provato, perché neanche praticamente ci era riuscito, perché era stato fermato prima, a liberare dei visoni dall'allevamento di un allevamento di visoni nell'Iowa, in uno stato americano. Questa settimana un giudice ha concesso a Victor la libertà condizionale, riducendo di fatto la sua sentenza di oltre il 90%. Bella notizia anche perché, come dire, Victor è stato tra virgolette fortunato, nel senso che lui e la moglie, che aspetta un secondo, c'è un problema tecnico. Non so perché non si sente più il tuo microfono. Vieni, guarda, usa quest'altro. Va bene, lieto intermezzo. E niente, vabbè, di solito quando i reati in America diventano federali è molto peggio, e negli anni passati sia azioni di liberazione animale che azioni di liberazione della terra sono stati sempre giudicati a livello federale. A livello federale è stata anche promossa un fenomeno repressivo di larghissima scala noto come Green Scare, che faceva un po' il verso al Red Scare degli anni 50, cioè la caccia al rosso. Bene, di questi tempi in America va di moda purtroppo la caccia al verde, cioè agli animalisti e agli ecologisti radicali. Per fortuna per Kelly e Victor invece il processo si è tenuto nello stato dell'Iowa, dove è prevista la possibilità di concedere la libertà condizionale. Per cui sono tornati liberi e a loro va la nostra totale solidarietà e complicità. Ok, io invece vengo alla notizia cattiva. Vi leggo direttamente il comunicato che ci scrive Mary Mason, una prigioniera ecologista e animalista radicale, che è stata arrestata per azioni ecologiste commesse nel 2009. Tra l'altro lei è stata, diciamo, mandata bevuta dall'ex marito Frank Ambrose, che ha deciso di diventare un informatore dell'FBI e ha giocato un ruolo determinante nel farla incriminare. In questo momento è la prigioniera ecoanimalista con la più lunga pena da scontare in assoluto, e 21 anni di carcere, insomma, non sono pochi. Per chiunque non conoscesse il suo caso, comunque c'è un sito di supporto che è http://supportmarymason.org. Allora, vi vengo a leggere uno stralcio del comunicato, che poi trovate tranquillamente sia su informazione che su liberazioneanimalegenova.noblogs.org. Ciao e buon anno nuovo. Sì, scusate, il comunicato è di qualche mese fa, ma è stato tradotto soltanto ora, quindi lo leggiamo ora. Ormai un po' più di un anno e mezzo da quando sono stata trasferita qui all'unità amministrativa di Croswell. Molte persone hanno scritto chiedendomi se ero in ospedale qui, e no, non lo sono. L'unità amministrativa è solo una parte di un complesso più grande, dove si trova un importante centro medico per il Ministero delle Prigioni. Questa unità è completamente separata dal resto del complesso. Si era il centro medico, in realtà persino più difficile da vedere, e la maggior parte del personale medico da qui, a causa dei particolari requisiti di sicurezza che devono accompagnare ognuno di noi, se lasciano questa parte della struttura per qualsiasi motivo. Si tratta di un mondo molto piccolo, solo circa 20 donne che si trovano qui in completa segregazione dalla popolazione carceraria in generale. Scusate, abbiamo dei problemi tecnici. Sia come una sorta di unità di controllo. Fortunatamente non siamo chiusi in una cella tanto quanto lo sono gli uomini nella struttura maschile, in quanto la politica del BOP è diversa per i detenuti maschi e le detenute femmine. Sono stato in grado di mantenere la mia dieta vegana, per lo più a mie spese fino a poco tempo fa e continuerò a farlo. È stato più facile mantenere una dieta sana e varia qui rispetto a prima. La cucina di Croswell ha opzioni vegan per i pasti quasi sempre, con poche eccezioni. Fagioli, riso, verdure sono più, per lo più delle volte disponibili. Poi diciamo, non ve lo vengo a leggere tutto perché è abbastanza lungo, vi vengo a leggere la fine, ma comunque appunto lo potete trovare su informazione. Domani compirò 50 anni, si tratta di un momento fondamentale per riflettere della mia vita. Come tutti gli esseri umani ho commesso degli errori ed ho qualche rammarico di poco conto. Ma io sono ancora un'anarchica, una femminista, internazionalista, una wobby, cioè un'attivista facente parte del collettivo sindacale anticapitalista IWW. Un'organizzatrice per la comunità, un'appassionata Air Firster. Sono ancora orgogliosa di aver fatto la mia parte nell'Earth Liberation Front e nell'Animal Liberation Front per difendere la natura selvaggia e i nostri fratelli e sorelle non umani. Ho speso la mia vita in molti movimenti e tutti mi sembrano essere parte del processo di cambiamento necessario. Questo esperimento di cambiamento sociale è ancora in corso e tutti noi dobbiamo continuare a provare, continuare a contribuire per quello che possiamo. Il mio corpo è intrappolato qui, ma il mio cuore è con voi che combattete ancora. Mai arrendersi, mai arrendersi. Tenete le vostre menti aperte e inventate i migliori compassionevoli modi per generare il cambiamento. E scrivete quando potete. Sono una manna, mi preoccupo per tutti voi là fuori. Come diceva Woody Guthrie, take it easy, but take it. E allora mandiamo i consigli. No, prima vogliamo leggere delle azioni dirette. Senza cibo e acqua, usate nuovamente per la caccia e per in spazi minuscoli, senza potersi muovere. Ora i tre sono pronti per vivere la vita che gli spetta lontano da quello che per loro è un inferno quotidiano. Il sito Direct Action. Sì. Diciamo i libri di questa settimana. Tra l'altro, ecco, il primo libro che vi diciamo è l'imperatrice di nuda di Ansara. È brava, io per le lingue sono negato. Enzo Ruesch, che è quello dal quale abbiamo letto tutti quanti gli esperimenti di questa serata. Insomma, sul libro ce ne stanno anche altri, ma non è un raccoglitore di esperimenti, anzi è un libro che analizza i punti fondamentali della vivisezione per quanto riguarda l'aspetto scientifico, politico e poi anche le forme di lotta, la ribellione, quelli che sono i movimenti, eccetera. No, usa questo microfono, quello lì mi sa che è andato. Sì, gli altri libri che abbiamo citato, Ivan Illich, Nemesi Medica, che appunto mette in discussione la medicalizzazione della società e fa una critica all'impostazione medica dominante come appunto paradigma dominante che crea una determinata casta finalizzata a un determinato fine di dominio e a determinati interessi economici. Hai detto determinato qualche volta? Lo so. Ok, sempre per la serie di azioni dirette. Leggiamo un comunicato informazione. Salvi immorali speculatori, siete complici del macabro business che condanna quotidianamente migliaia di animali innocenti a subire torture e sofferenze inimmaginabili, rinchiusi in gabbie anguste, trasportati in condizioni disumane, scuoiati vivi e soppressi barbaramente. Sono le vittime di una crudeltà che appartiene solo a una bestia, quella umana. A voi, schiavi del denaro e ai vostri sostenitori, serve di barbarie trincerate dietro il concetto del lusso, va il nostro più profondo disprezzo. Grazie per l'attenzione, cordialmente Anonymous, che voleva comunicare che ha attaccato il sito gentilfur.com, defacciandolo, mentre masharpet.com è diventato vittima del consueto Tango Down. Ecco, Gentili Fur è chiaramente un sito di pellicce, Marshall Pet è una diramazione della Marshall Farm, che è l'azienda proprietaria di Green Hill, dell'allevamento di Green Hill. E a proposito dell'allevamento Green Hill, un po' paradigma della lotta contro la vivisezione, ricordiamo un appuntamento per il 16 maggio, a presidi e manifestazioni in tutte le città organizzate da Occupi Green Hill, che è l'altra faccia della lotta Green Hill, oltre il coordinamento fermare Green Hill. Come forse alcuni di voi sapranno, la discussione, la presentazione degli emendamenti al Senato è stata posticipata e il 16 maggio è un'ulteriore occasione di fare pressione, insomma, sui senatori. Gli emendamenti, insomma, sono un po' una questione un po' complicata. C'è chi li appoggia, c'è chi non li appoggia. Ci sono critiche anche molto fondate, sia di principio sull'idea appunto di far ricorso alla politica per contrastare la vivisezione, di solito non se ne tiene niente di buono, sia nel merito degli emendamenti stessi. Ma comunque adesso, al di là di tutto, il 16 maggio è importante comunque stare in piazza, perché comunque è un'altra risposta e un'altra mobilitazione contro la vivisezione. Presidi Ancona, Bari, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, insomma non vi ripeto tutto l'alfabeto, Roma, Milano e via dicendo. Trovate notizie sul sito www.occupy.greenhill.it. Va bene, allora credo che per oggi abbiamo concluso. Hai qualcosa ancora? No, pensavo che volevamo rimandare al blog. Sì, allora il blog, il nostro blog, che è radiopossum.noblogs.org. Se volete scriverci, l'indirizzo email è lagazzaladra@inventati.org, retaggio del primo nome della trasmissione che è durato qualche decina di minuti prima che la trasmissione continuasse, però purtroppo l'email ormai è quella, che cacchio dobbiamo fare? E poi vi volevamo segnalare alcuni articoli interessanti sulla vivisezione, anche abbastanza, diciamo così, scritti in tono divertenti, ma con molti contenuti, che potete trovare sul blog di Femminismo Sud, che è appunto femminismo-a-sud.noblogs.org, e in alto ci stanno le categorie, le potete trovare nella categoria animalismo antispecismo, e ce n'è uno, insomma, molto simpatico. Sì, su Batman. Sì. Che figo. Che non abbiamo fatto in tempo a leggere. Vi ringraziamo per averci seguito in questa riflessione sulla visezione, speriamo che siamo stati più comprensibili possibile, perché comunque è una tematica abbastanza complessa, e aspettiamo comunque anche i vostri suggerimenti o critiche. critiche no. Se ci chiamate per critica, attacchiamo. No, scherzavo. No, vabbè, insomma, niente. Mandiamo un saluto e un abbraccio, come al solito, a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, insomma. Sia umani che non. Sia umani che non. Ciao. Ciao a tutti.